questo giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore, e grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola fine. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore.